Ci sono due tipi di persone, quelli che parlano e basta e quelli che si danno da fare. La gente che si dà da fare, qualche volta la senti anche parlare, ma quasi sempre non parla perché ha da fare. E quando quelli che parlano sono costretti a darsi da fare, lo sai che fanno? Che cosa? Convincono quelli come me a fare il loro posto. Amico, non hai più fiato? No, è che... Clyde, che stai facendo? Mi do da fare.